Gli speciali di Radio 24. C'è sempre una captatio benevolentiae in cui si dice no, non me l'aspettavo assolutamente, io sono una persona che odia l'ipocrisia e credo che quando si concorre a un premio in qualche modo uno se l'aspetta, nel senso che fa del suo meglio, cioè appunto uno scrive un libro, cerca di farlo bene, se no neanche lo pubblica. Credo che sia importante proprio rispettare il pubblico e dare il meglio di quello che si può fare, e in questo caso sono stata veramente felice perché è stato un amore ricambiato. Buonasera ad Alessandra Tedesco. Quella che avete appena sentito è la voce di Mariolina Venezia, che con il romanzo Mille anni che sto qui, il suo primo romanzo, si è aggiudicata ieri il premio Campiello edizione 2007. Parliamo dunque di questo premio, facciamo Radio 24 dedica uno speciale al premio Campiello. Vi ricordo tra l'altro che Musica Maestro, che di consueto va in onda appunto alle 20, solo per questa sera andrà in onda alle 21. Allora parliamo di libri, parliamo di questo premio Campiello, lo faremo con la viva voce dei protagonisti ma anche con Stefano Salis della Domenicale del Sole 24 Ore. Ciao Stefano. Ciao Alessandra, buongiorno a tutti. Allora iniziamo subito a fare un po' i commenti su questo premio. Quest'anno è stato un premio veramente a sorpresa. Favoritissimo era Carlo Fruttero con Donne informate sui fatti, che ahimè però è arrivato ultimo. E invece quella che era un po' una, diciamo sicuramente non delle favorite, Mariolina Venezia, è stata premiata da questa giuria dei 300 lettori in tutta Italia. Insomma, la conferma che il premio Campiello è veramente un premio trasparente, cioè riserva sempre delle sorprese fino all'ultimo, Stefano? Io direi proprio di sì. La giuria popolare è solita sovvertire quelli che sono i pronostici, diciamo così, degli addetti ai lavori, i pronostici del mondo dell'editoria. Questa edizione in particolare conferma, con la vittoria di Mariolina Venezia, che non si può essere tranquilli al Campiello. È un premio nel quale la competizione è trasparente e può riservare delle sorprese. Va detto che il libro che ha vinto è ottimo e meritevole del premio, anche perché la cinquina che era stata selezionata dalla giuria dei letterati garantiva comunque un buon risultato. Certo, ha sorpreso il fatto che un gran signore della nostra letteratura come Carlo Fruttero sia stato, spiace dirlo, ma sonoramente bocciato dal pubblico dei lettori, dei 300 lettori, che peraltro non coincidono con quelli che frequentano le librerie, dove invece il libro di Fruttero è ha venduto quasi 200.000 copie, mi dicevano oggi appunto dalla Mondadori. Ricordiamo, il libro di Carlo Fruttero appunto è pubblicato da Mondadori, mentre quello di Mariolina Venezia dalle Einaudi. Insomma, un giudizio, un verdetto che ci ha meravigliato tutti un po' ieri sera. Eravamo in sala stampa lì alla Fenice a Venezia e noi per primi siamo rimasti stupiti, anche perché Fruttero ha ricevuto solo 28 voti, mentre Mariolina Venezia ne ha ricevuti 106. Prima parlavamo di giuria dei letterati e di giuria popolare. Allora ricordiamo rapidamente il meccanismo del premio Campiello. Allora c'è una giuria cosiddetta dei letterati, fatta da persone dello spettacolo, del mondo della cultura italiano, che decidono un po' quali fra tutti i libri pubblicati in Italia da scrittori italiani nell'ultimo anno può essere appunto, può far parte della famosa cinquina dei finalisti del Campiello, che già di per sé si aggiudicano quindi la selezione Campiello. Poi è una giuria di 300 lettori comuni sparsi un po' in tutta Italia, vengono scelti abbastanza a caso e soprattutto chi ha fatto il giurato un anno non può farlo l'anno successivo, esprimono appunto il loro voto. Allora quest'anno, dicevamo, è stato un Campiello delle sorprese. Ricordiamo rapidamente anche la classifica, Stefano. Allora al primo posto si è piazzata Mariolina Venezia, poi abbiamo avuto al secondo posto una favorita di questa edizione, la sarda Milenagus Mal di Pietre, un libro che ti è piaciuto molto, anche appunto a maggior ragione perché sei sardo. A maggior ragione perché sono sardo, però il campanilismo vale fino a un certo punto nella letteratura. Era un ottimo libro, continua ad esserlo e ha avuto un grande successo di vendite sia in Italia che in Francia, dove è stato tradotto molto presto e dove è diventato un caso letterario. Sì, ecco, è stato prima un caso letterario in Francia e poi è arrivato da noi in Italia. E purtroppo capitano anche queste cose, ci siamo fatti un po' fregare dai francesi, dal gusto francese, poi l'abbiamo recuperata la Agus in un secondo momento. Ecco, se posso dare una notazione in più, a maggior ragione sulla sorpresa di questo Campiello, va anche detto che era da qualche anno che non vinceva una donna, e quest'anno la competizione invece è stata tutta tra due donne che fin dalla prima, dal primo spoglio sono andate avanti colpo su colpo, non hanno mai smesso fino al verdetto finale. I tre uomini sono rimasti un po' indietro. Un po' indietro, è vero. Infatti quest'anno la giuria dei letterati aveva detto sarà un campiello al femminile, ci sono due donne in finale, poi c'erano le otto donne virtuali del libro di Carlo Fruttero. Stefano, ci fermiamo un attimo per la viabilità e riprendiamo subito dopo con lo speciale campiello. Gli speciali di Radio 24. Donne protagoniste in questa 45esima edizione del premio Campiello che è stato assegnato ieri a Venezia. Allora al primo posto si è piazzata Mariolina Venezia, al secondo, come dicevamo prima con Stefano Salis, Milena Agus. Ma parliamo del libro vincitore innanzitutto, Mille anni che sto qui. La scrittrice è al suo primo romanzo, eppure ha mostrato fin da subito una certa determinazione, l'avete sentito anche dalla sua voce all'inizio di questo speciale dedicato al Campiello, e anche prima della del premio l'avevo incontrata e le avevo appunto chiesto se essere in finale al Campiello avendo scritto un solo romanzo, pur se nella vita Mariolina Venezia fa la sceneggiatrice, era un risultato che lei si aspettava. Sentiamo come ci ha risposto. Sì, perché è un libro a cui ho dedicato 6 anni e appunto è stata un'idea che ho avuto di questa grande saga e poi ci ho lavorato per 6 anni con ricerche, con sia ricerche per quanto riguarda tutta la scenografia, perché tutto fatto è ambientato, inizia nell'Ottocento e arriva fino al 1989, e quindi ho cercato tutti gli sfondi storici, gli oggetti che potessero rendere credibile questa storia, e poi anche ho cercato di fare questo affresco e volevo fare un racconto che potesse arrivare al pubblico e che potesse essere letto, insomma, con come si leggeva un feuilleton nell'Ottocento, una certa passione così, e quindi insomma me l'aspettavo, diciamo che speravo di avere un riscontro. Il romanzo è appunto una grande saga familiare, protagoniste sono soprattutto le donne che vivono però in una società molto molto maschilista, ma ci sono comunque dei cambiamenti nella vita di queste donne attraverso poi tutto il passare degli anni? Beh sì, io appunto inizio questo romanzo nel 1861, che è il momento dell'Unità d'Italia, e lo concludo con la caduta del muro di Berlino, ed è un po' la storia d'Italia, sia la storia dal punto di vista storico, sia anche la storia dell'evoluzione per esempio del costume e quindi anche del ruolo della donna nella società. Infatti appunto inizialmente parlo di questa famiglia Falcone e il romanzo inizia con la grande attesa del figlio maschio. Però appunto mi sono divertita a seguire non lui ma la sua seconda sorella, cioè quella che sarebbe stata un personaggio secondario in una saga normale, e quindi infatti io ho rivisitato questo genere, quello appunto della saga, con il paradosso e anche con l'ironia. L'ironia però non un'ironia così diciamo per scherzare e basta, ma che viene proprio dai contrasti che la storia ha creato nel nostro paese. Il titolo del suo libro, Mille anni che sto qui, è poi una frase che viene pronunciata da uno dei personaggi. In che contesto e con che significato? Beh, è una frase che viene pronunciata appunto dalla nonna Candida quando, diventata ormai molto molto anziana, non ne può più, come spesso le donne del sud, un po' anche per scaramanzia, quando vivono a lungo quasi hanno pudore di vivere, allora dice ah non ne posso più, mi sembra 1000 anni che sto qui, voglio andare in paradiso praticamente, e questa è l'accezione in cui lo dice il personaggio. In realtà poi la frase diventa un po' anche metaforica, perché quello che io racconto nel libro è come ognuno di noi sia il frutto di tutta la storia che lo precede e quindi abbia delle radici molto lontane nel passato. E poi forse parlo anche di una certa realtà del sud che quindi sembra immutabile negli anni, cioè di un sud che sembra immutato quasi per millenni e che poi si trasforma molto rapidamente nel giro di pochi anni. E questa era Mariolina Venezia, che si è aggiudicata quest'anno il premio Campiello. Stefano Salis, una donna piuttosto determinata che fin da subito appunto ha detto così, in fondo io meritavo di essere qui perché mi sono impegnata molto, il mio è un bel romanzo, e poi ha anche detto una frase che ha scandalizzato un po' tutti: io scrivo per far soldi. Probabilmente si riferiva al suo lavoro di sceneggiatrice più che di scrittrice. A te che impressione ha fatto? Ma di una persona molto determinata e molto consapevole di quello che sta facendo. Va detto che rispetto alla Agus sono veramente due tipologie di scrittrici opposte. Io del libro della Maddalena Venezia ho avuto notizia a ottobre del 2006, quando c'è stato la fiera di Francoforte. Nella quale la Einaudi puntava molto su questo libro, che aveva già venduto all'estero prima ancora che fosse pubblicato, e quindi si puntava molto sulle qualità letterarie e spendibili dal punto di vista del pubblico di questo libro, e già erano stati presi accordi perché fosse anche tradotto in film, cosa che poi invece si farà probabilmente. Sì, i diritti sono stati acquistati dalla Warner Bros, se non erro. Ecco, esatto. E da questo punto di vista la Maddalena Venezia è una scrittrice, perché per quanto giovane è molto consapevole di quello che sta facendo, quindi ha scritto, credo abbastanza consapevolmente, un libro che potesse, voglio dire programmaticamente, ma lo metto tra virgolette, piacere al pubblico, il che non è una colpa, anzi è una qualità che gli scrittori devono perseguire. Sicuramente, lei ha detto io scrivo per il pubblico, scrivo in modo anche chiaro per il pubblico. Ricordiamo che Mille anni che sto qui è una grande saga familiare che inizia più o meno dall'Unità d'Italia, come lei stessa diceva, fino ai giorni nostri. Protagoniste sono soprattutto le donne in un mondo però estremamente maschilista. E per avere un po' un'idea di questo mondo maschilista in cui si immerge Maddalena Venezia, sentiamo un estratto dal libro. Dopo Costanza erano nate nell'ordine Albina, Candida detta Alicandra, Giustina, Gaetana detta Chetanella e Giuseppina. Il loro arrivo era stato foriero di burrasca, lacrime e pentimento, ma ogni volta, puntualmente, si era ripetuto il miracolo del rimbambimento di Don Francesco, anche se nessuna di loro aveva preso nel suo cuore un posto ingombrante come quello occupato da Costanza. Nel desiderio sempre deluso del figlio maschio, Francesco aveva educato le sue figlie illegittime, dando a ognuna un po' di quella virilità di cui la casa mancava. E ora passiamo all'altra donna protagonista del Campiello, Milena Agus, che ha scritto Mal di pietre, pubblicato da Nottetempo. Si è classificata seconda, era una delle favorite della vigilia, almeno da parte dei cosiddetti esperti del settore. Sentiamo un po' di cosa si tratta, proprio dell'incipit del romanzo. Nonna conobbe il reduce nell'autunno del 1950. Arrivava da Cagliari per la prima volta in continente. Doveva compiere 40 anni, senza bambini, perché su mani dei Sperdas glieli faceva sempre abortire nei primi mesi. Allora, con il suo soprabito a sacchetto e le scarpe alte coi lacci e la valigia del marito quando era sfollato in paese, fu mandata alle terme per curarsi. Queste terme che vengono citate diventeranno galeotte, almeno da un punto di vista apparente. Infatti saranno lo sfondo di una storia d'amore che solo alla fine si capirà quanto ha di reale. Allora, Stefano Salis, di Milena Agus si è detto tanto, ma insomma ci fa o ci è? È una persona veramente timida, riservata, che però ha una scrittura veramente travolgente, tumultuosa quasi. Tu che idea ti sei fatto di lei? Dunque, io ho avuto la fortuna di conoscerla un po' prima che lei diventasse così famosa, diciamo, anche con i suoi libri, e la mia impressione è che sia il tipico caso di persona così timida e appartata nella realtà quanto sia travolgente e sfrenata nella scrittura. Questa è la doppia caratteristica che ha Milena Agus, e che credo alla fine possa piacere molto al pubblico. Da una parte quello dei lettori, che ritrovano sulla pagina una scrittura potente, forte, coinvolgente, e dall'altra quella del pubblico, di chi per esempio ha visto la Milena Agus alla cerimonia del Campiello, molto timida, quasi riservata, quasi pudica, insomma, di apparire in pubblico. Una persona che non farà certo parte dello Star System, ecco, da questo. No, che sicuramente no, infatti era terrorizzata anche prima della nostra intervista radiofonica che adesso vi faremo ascoltare, nella quale lei stessa proprio mette l'accento sulla profonda diversità fra la sua personalità e quello che scrive. Secondo me c'è una differenza sempre fra quello che uno è come persona e la sua fantasia. Soprattutto chi scrive ha una fantasia sfrenata e la fantasia viaggia, quindi non c'è da stupirsi se una persona timidissima poi scrive cose anche molto appassionate, anche molto osa, diciamo, cose con cui osa molto, ecco. Non so, cioè io quando scrivo sempre solo per me, proprio non penso mai ai lettori. E poi questo successo inaspettato, la pubblicazione di questi romanzi, di questi due romanzi, è molto recente, quindi è negli ultimi anni, viene dopo una vita in cui ho scritto solo per me, per star bene io, per divertirmi io, per fermare le cose che mi piacevano, per capire le cose che non capivo, per smaltire i dolori, i dispiaceri, così. Per cui sì, direi che si spiega in questo modo, cioè non ho pensato a che effetto poteva fare. A proposito del suo rapporto con la scrittura, lei ha detto che, per esempio, utilizza l'ipotesi del suicidio per un suo personaggio per poi non applicarlo a se stessa. Quindi che cos'è per lei la scrittura? Un modo, diceva prima, per scaricare anche i dolori, ma anche per evitare le paure? No, le paure purtroppo non si possono evitare. Il fatto che alcuni personaggi o si suicidino o lo tentino, no? Come la nonna che si butta nel pozzo, eccetera, forse è un modo per capire io stessa che non bisogna farlo. E forse molti miei personaggi, ecco, si suicidano, però poi altri personaggi fanno capire che si poteva evitare. E allora io lo capisco con loro, sì, capisco anch'io che non bisogna suicidarsi. Mal di Pietre, protagonista, è una donna che racconta una storia d'amore, chissà se poi realmente accaduta, di sua nonna con questo reduce, con quest'uomo che viene chiamato il reduce. Come è nata l'idea di questi personaggi? La nonna nasce da un'idea un po' che ho sempre avuto, cioè io a volte ho pensato come sarei stata io se fossi nata nel 1913, che vita avrei avuto. E altri personaggi, sì, sono magari ispirati a delle persone, ma solo vagamente ispirati. Cioè l'idea magari nasce da una persona e poi però il personaggio a un certo punto se ne va per conto suo. Il suo libro ha avuto prima grande successo in Francia, solo dopo è stato scoperto da noi in Italia. Come mai, secondo lei? Questo motivo del successo in Francia davvero non me lo spiego. No, non lo so. Io ho pensato a una ragione un po' magica, perché diciamo che il caso, oppure non lo so, e la magia ha voluto che mio figlio viva lì. Cioè io, mio figlio che vive a Parigi, è un jazzista. E poi per esempio mio padre diceva sempre che non voleva morire senza vedere Parigi. E purtroppo poverino è morto per una grave malattia ai reni, quindi le malattie ai reni sono una malattia della nostra famiglia, e lui è morto senza vedere Parigi e poi invece mio figlio abita a Parigi, il successo di Mal di Pietre è un successo francese, parigino, non lo so, mi sembra che ci sia qualche ragione strana, qualcosa di razionale non lo saprei dire. Gli speciali di Radio 24. Alle feste incontravi giovani donne appena separate, senza figli, con vestitini neri semiaderenti e calze nere velate, colpi di sole perfetti, curate in ogni minimo dettaglio per apparire integre e piene di fiducia. Incontravi uomini sui 40 o 45, reduci da lunghe convivenze, allegri e chiassosi in modo un po' robotico, decisi a convincere chiunque che l'essere diventati così come li vedevi fosse l'esito di una lunga catena di decisioni consapevoli e governate. Incontravi giovani gay sorridenti, spiritosi, fulminei, che non si fermavano un istante. E poi coppie belle, coppie semibelle, coppie corrose e coppie devastate. Questo è un estratto del romanzo Il labirinto delle passioni perdute di Romolo Bugaro, pubblicato da Rizzoli, arrivato terzo al premio Campiello, un brano che ci ha introdotto un po' al tema che viene trattato in questo romanzo. Si racconta la storia di alcuni ragazzi, se ne seguono poi le vicende quando diventano adulti, quando diventano quarantenni, cinquantenni. Sono ragazzi che fanno parte dell'alta borghesia milanese, sono figli di industriali e sono persone che hanno però una vita emotiva piuttosto disastrosa. Lo stesso Romolo Bugaro ci ha raccontato da dove è nata l'idea di questa trama. L'idea è nata da un'osservazione, dall'osservazione delle cose che stavano intorno a me e precisamente dall'osservazione del fatto che proprio intorno a me, nella mia esperienza personale, non c'erano quasi più coppie che duravano. Cioè intorno a me una coppia sposata da più di, non so, 8 anni, 10 anni era l'eccezione, non la regola. C'era stato questo rovesciamento, cioè esistono alcune aree del paese, in alcune fasce anagrafiche e se vogliamo anche fasce di reddito, dove la normalità non è più, come dire, l'amore stabile, il matrimonio stabile, ma la normalità è viceversa la rottura, il ricambio e, come dire, il nuovo, nuove navigazioni, insomma. Allora, siccome questo è un fenomeno molto rilevante, mi interessava parlarci proprio ormai questa post-famiglia, la potremmo definire. E io volevo raccontare un pochino questa post-famiglia, com'è in concreto la vita di queste persone ancora relativamente giovani, ma già in qualche modo, non voglio dire spezzate, ma che sono già passate attraverso l'esperienza di un fallimento privato importante, e volevo provare a raccontare come questo fallimento ha agito su di loro, e volevo farlo perché appunto ce n'è tantissime di persone così. In questa analisi sociologica, letteraria, che lei ha fatto in questo libro, alla fine che risposte si è dato? Perché succedono tutte queste rotture? È una questione, direi che la parola centrale è desiderio. Questi sono anni in cui noi siamo proprio letteralmente posseduti, dominati dal desiderio, desiderio di cose, desiderio di corpi, desiderio di identità, le forme di desiderio più diverse. Noi dobbiamo sempre essere molto belli, molto simpatici, molto ricchi, molto performanti in ogni campo. Questo è quello che, come dire, ci viene richiesto dal mondo. Poi naturalmente tenere il passo con tutto questo è una questione molto difficile e i personaggi del libro faticano a tenere il passo. Quindi perché succede? Perché direi che viviamo in un'epoca di desiderio assoluto e anche, aggiungo, succede anche perché viviamo in un'epoca, io credo, di presente assoluto, cioè le conseguenze delle azioni sono ormai oggi quasi sistematicamente cancellate, conta solo l'atto in sé. E insomma è il racconto di persone che vivono in questo clima per queste ragioni. Protagonisti di questo romanzo sono tre coppie che poi si conoscono fin dai vent'anni, insomma dall'epoca del liceo. In particolar modo l'attenzione è concentrata su Eliane ed Enrico. Enrico, industriale, ricco, che poi deve affrontare invece un crack finanziario. Che cosa rappresenta questo crack? La punizione quasi divina per chi ha vissuto in maniera così un po' superficiale e dissoluta? Le bancarotte in generale, secondo me, hanno una grande forza simbolica, perché tu sei un grande industriale, hai tutto, hai denaro, bere, relazioni, influenza. A un certo punto, siccome ormai oggi il mondo è globalizzato, è complesso, anche per ragioni che possono sfuggire, improvvisamente tutto questo tu lo perdi, cessa il denaro, le relazioni, cessa assolutamente tutto. È interessante secondo me raccontarle perché secondo me simboleggiano bene una delle cifre vere della vita di tutti noi, del nostro tempo, che è la cifra della reversibilità, della revocabilità di ogni situazione. Cioè oggi l'idea di garanzia, l'idea di stabilità, l'Occidente la sta proprio smontando un po' da ogni ambito. Questo non è un discorso politico, non dico sia bene sia male, ma insomma dal lavoro viene smontata, negli affetti viene smontata. Essere sposati da 30 anni, avere 5 figli, non è più garanzia che il tuo matrimonio durerà per sempre, perché dalla sera alla mattina può finire comunque. Viviamo tutti in una condizione di crescente instabilità e la bancarotta, secondo me, quindi il rovesciamento, la rottura verticale, la simboleggia bene. Allora Stefano, abbiamo appena sentito Romolo Bugaro. Del suo libro abbiamo appunto parlato per quanto riguarda i contenuti. C'è stata al Campiello una simpatica, assolutamente ironica e buona polemica fra Bugaro e Zaccuri, un altro partecipante appunto al Campiello, un altro dei finalisti, sulle copertine dei loro libri. Una cosa che ci ha divertito molto. Bugaro diceva: la mia copertina è decisamente più bella della tua, ci abbiamo puntato tantissimo. E Zaccuri invece rivendicava una copertina che aveva più stile. Insomma, queste copertine, a te, quella del Il labirinto delle passioni perdute, ti piace o no? Devo dire che la polemica, se la vogliamo così chiamare, è stata un po' montata, anche perché i finalisti del Campiello hanno occasione di vedersi durante una lunga serie di presentazioni che avvengono in estate, prima di arrivare alla puntata finale del Teatro La Fenice. Quindi era una polemica molto amichevole e benevola. Assolutamente scherzosa. Devo dire che tra le copertine che sono state selezionate, al mio gusto personale va certamente la copertina di Carlo Fruttero, Donne formate sui fatti. Bene, quindi tra i due litiganti il terzo gode, Salis. Il terzo gode, sì. Devo dire che poi la copertina comunque continua a rivestire un ruolo molto importante nell'impulso e per l'acquisto da parte del lettore, dunque non è comunque un fenomeno da sottovalutare. Al di là della copertina, il libro di Bugaro è un libro molto interessante che, a dispetto degli altri due che lo hanno sopravanzato, quello della Venezia e quello della Agus, è molto più centrato sull'attualità di sì, quanto non molto, molto, anche molto piacevole a leggersi. E allora veniamo ad Alessandro Zaccuri, che contendeva appunto a Bugaro il primato della copertina più bella. Qui parliamo però di un romanzo assolutamente diverso da tutti gli altri. È un romanzo molto letterario, un romanzo molto complesso, dove la bella scrittura conta tanto. Parliamo di Il signor figlio, pubblicato dalla Mondadori. Nel sottotitolo si legge: Leopardi non è morto, vive a Londra, è il Conte Rossi. Nell'incontro che ho avuto con Alessandro Zaccuri gli ho chiesto, insomma, questa storia, un intreccio di personaggi, piani temporali, di persone realmente esistite collocate in un diverso periodo storico. Insomma, alla fine gli ho chiesto: ma perché una trama così complessa? Sentite cosa ci ha risposto. Beh, per prima cosa, da come l'hai raccontato tu sembra Lost, e quindi mi sembra una bellissima descrizione ed è un po' lo spirito con cui io avrei piacere venisse letto questo libro. È un libro che nasce dalla curiosità, e nasce dalla curiosità per quello che ritengo sia un tema importante nella vita di tutti noi, che è il rapporto con le nostre origini, il rapporto con i nostri genitori, il conflitto e la possibilità di uscire dal conflitto. Io mi sono appassionato nel corso del tempo a storie di artisti che in qualche modo erano stati educati dai loro genitori nell'arte e che poi si sono rivelati in qualche modo più grandi, più compiuti. E uno di questi artisti è appunto Giacomo Leopardi, siccome che aveva un padre, Monaldo, che gli aveva insegnato che cos'erano i libri, che sono stati la cosa forse più importante nella vita di Giacomo. E a quel punto la storia di Leopardi aveva dei punti di contatto con la storia di un'altra famiglia di scrittori e artisti, che sono i Kipling. Anche Rudyard Kipling aveva un padre artista meno conosciuto di Monaldo, e c'era un po' la necessità di farli incontrare, queste due famiglie, ed è nata così questa ipotesi, che è anche un po' suffragata dalla storia, perché noi in realtà non sappiamo dov'è finito il corpo di Giacomo Leopardi. Quando Leopardi morì a Napoli nel 1837 era in corso un'epidemia di colera, quindi i corpi finivano nelle fosse comuni, il cadavere di Giacomo non sappiamo dove sia. Sulla base di questa mancanza iniziale ho provato a costruire un'ipotesi, che è ovviamente romanzesca, non pretende di essere una controstoria di letteratura italiana, però di un Leopardi che, sotto mentite spoglie, però continuando in qualche modo a sollecitare e tormentare questo padre rimasto in Italia, Leopardi appunto va lontano, nel posto più lontano e più vicino da casa, più lontano perché Londra, più vicino perché Londra era una città dove gli italiani in quegli anni trovavano spesso rifugio. È più un romanzo sul rapporto padre-figli o sull'amore per i libri e la letteratura? per come l'ho scritto io, per come diciamo è servito a me, più è un libro sugli affetti, senz'altro. È un libro dove necessariamente si parla anche di cose erudite, così, però il mio invito per il lettore, l'ho detto nelle varie presentazioni che abbiamo fatto, di considerare un po' tutto questo come una colonna sonora, no? Come una specie di accompagnamento musicale, non è necessario capire tutto di quello che si dicono questi qui. Un intreccio alla Lost, come dicevamo prima, un linguaggio molto, molto ricercato. A volte può sembrare anche difficile per un lettore non avvezzo. Secondo te questo può scoraggiare i lettori o magari può intrigarli? Io mi auguro ovviamente che possa intrigarli. Diciamo che scrivendo questo libro ho voluto prendermi il lusso di usare tutte le parole della lingua italiana che ancora possiamo usare. Negli ultimi, diciamo, 50 anni, proprio il lessico, proprio le parole che adoperiamo si sono ridotte in maniera molto rapida e molto drastica. Però c'è ancora, diciamo, una zona grigia di parole che si fa ancora in tempo a usare in questi anni e che mi sono preso, ripeto, il lusso e anche in questo caso sì, un po' il divertimento di adoperare. Allora Stefano, Alessandro Zaccuri nella sua intervista diceva che sì, il suo romanzo è effettivamente una struttura complessa, ma nello stesso tempo questa struttura complessa può fare semplicemente da sfondo e quindi può avere anche una lettura più semplice. Tu come la vedi? La vedo con il fatto che lui è costretto a dirlo, però il suo libro è complesso e di una complessità piacevole e ben strutturata. Zaccuri è un ottimo giornalista di Avvenire, poi ha avuto esperienze televisive, quindi ha sdoppiato completamente il suo registro di scrittura giornalistica in uno di stile letterario molto alto, di erudizione, non fine a se stessa. Questo di Zaccuri è stato il primo romanzo scelto dalla giuria dei letterati ed è entrato subito in cinquina. Sì, infatti è stato subito votato. Significa che proprio è il tipico romanzo che attira chi legge parecchio e che ha stimoli molto alti, una soglia di stimolo molto alta. Anche perché ci sono molte citazioni che quindi bisogna riuscire in qualche modo a comprendere. Sì, non voglio però spaventare i lettori. No, chiunque il libro è bello. Esatto, può leggerlo con piacere, con curiosità, che è una cosa rara. Ed è un libro non per niente scontato, ecco, insomma. No, anche perché la trama è appassionante. Insomma, si immagina che Leopardi in realtà non sia mai morto, sia vivo, sia rifugiato a Londra. Ma per avere un po' l'idea di questo libro e della sua atmosfera, eccone un estratto. Aveva cominciato lui, il signor figlio, con il falso greco. E ci aveva preso gusto, purtroppo. Dopo il Nettuno presunto, ecco farsi avanti il monaco Ammonio, cronista del martirio dei santi padri del Monte Sinai e dell'eremo di Raitu, letto in greco, nuovamente, nel testo pubblicato in Parigi nell'anno 1660 e dipendente, secondo ogni evidenza, da una prima redazione copta. Per volontà di Giacomo, però, Ammonio aveva preso a parlare con la voce di un anonimo volgarizzatore del 300, con gli adunque e le virtudi e ogni altro antichismo comandato dalla lingua del buon secolo. Gli speciali di Radio 24. Speciale Campiello, 45esima edizione, parliamo ora dell'ultimo libro, ahimè si è classificato Carlo Fruttero con Donne informate sui fatti, qualcuno insomma all'ultimo posto ci deve arrivare, ma come dicevamo all'inizio Fruttero era sicuramente uno dei favoriti della vigilia, perché? Perché insomma è arrivato a 81 anni, è stato in Italia insieme a Franco Lucentini, la famosa coppia Fruttero e Lucentini, il padre del giallo all'italiana, del poliziesco all'italiana, il padre anche della fantascienza, insomma è uno scrittore sicuramente molto molto amato dal pubblico e anche poi per la sua età si pensava che magari riuscisse ad ottenere un riconoscimento che, ricordiamolo, non ha mai avuto nella sua lunga carriera. Fruttero e Lucentini non hanno mai ricevuto dei premi letterari e Fruttero ci raccontava in maniera molto ironica, come spesso lui fa, che nella sua carriera con Lucentini hanno ricevuto una volta un premio che era un vulcano di argilla o di terracotta cotta, qualcosa del genere, quindi come a dire veramente dei premi veramente veramente minori. Stefano Salis del Domenicale del Sole 24 Ore, a te questo Donne Informate sui Fatti è piaciuto? Sì, no, devo dire che la questione del premio a Fruttero va inquadrata anche da un altro punto di vista. Per chi fa questo lavoro forse poteva essere pensato il Campiello come una specie di premio alla carriera per Fruttero. Non è stato che così. Non esiste più il premio alla carriera al Campiello, cosa che prima esisteva. Esatto. No, ma comunque lui era nella cinquina finalista, quindi non si poteva neanche cooptarlo come vincitore da parte della giuria. Era una speranza perché un grande signore della nostra letteratura venisse premiato, dopodiché il pubblico è sovrano e sceglie. Devo dire che è sintomatico il fatto che il pubblico è sovrano e sceglie in due casi diversi. Il pubblico dei giurati del Campiello ha scelto di farlo arrivare ultimo, ma dal punto di vista delle vendite in libreria Fruttero continua ad essere un grande successo. E questo mi sembra che possa essere una consolazione degna, tutto sommato, per Fruttero. E allora sentiamo che cosa ci ha raccontato Carlo Fruttero sul suo libro Donne informate sui fatti. Lui dice spesso che conosce poco delle donne, però conosce molto il linguaggio che le donne parlano, perché nella sua vita è stato sempre circondato da donne. Sentiamo. Ho sempre avuto dei rapporti facili, semplici con le donne. Ho sempre parlato la loro lingua, hanno una lingua speciale, non lo so, ma so come parlano, non so bene quello che pensano, non è mai chiarissimo, ma però il loro modo di parlare per me è sempre stato semplice, non so. E quindi poi al momento di scrivere questa storia mi è venuta in mente prima una bidella, non so perché, forse perché mi piaceva la parola bidella, sa, uno si innamora anche delle parole. E io questa bidella ho cominciato a raffigurarmela un po' grassa col marito, poi tutto quanto, cosa aveva in casa, le cipolle, una sua certa rabbiosità. E sentivo questa donna, mi piaceva, e così ho cominciato a raccontare la storia di questa bidella che va nei prati di vicino alla Fiat e raccogliere un'insalatina e trova il cadavere e poi tira dentro un'altra donna, una ragazza, e anche quella è una barista, e una barista veniva bene, parlava in un modo che io sapevo qual era, e poi quando ho avuto queste due donne ho continuato sempre con le donne, mi sono detto ma io se qui adesso ci metto un commissario, un capitano dei carabinieri, non c'entra niente, son voci di donne, una voce d'uomo non mi viene bene, non me ne importa niente, ce ne sono già state troppe nella storia del romanzo, soprattutto negli ultimi 20 anni. E così ho continuato con le donne, ho pensato che avrei fatto raccontare a pezzetti tutto il romanzo da donne che avevano visto dei momenti diversi, insomma testimonianze più o meno. Il suo nome, si sa, è sempre stato accoppiato a quello di Lucentini, e lei dopo la morte di Lucentini ci ha messo qualche anno per scrivere il suo romanzo. Che cosa le ha fatto scattare la molla? Guardi, non, queste cose non si sanno, io non lo so. Io a un certo punto, un mattino di febbraio, mi sono svegliato e ho detto, vabbè, mi butto con questa bidella, vediamo cosa succede. E ho cominciato a scrivere di questa bidella. Cosa vuol dire? No, non lo so, si vede che avevo voglia di raccontare di nuovo le cose della vita, e le cose poi anche naturalmente mie, di traverso. A me poi la mia vita, diciamo così, psicologica non mi interessa proprio niente, nemmeno quella dei malanni e acciacchi che ho, sono pochissimo interessanti per me, però si vede che avevo voglia di raccontare una bicicletta, un motorino, un'insalata, tutto. Lei in un'intervista ha detto che questo libro potrebbe essere una sorta di testamento. Che cosa intendeva? È che c'è tutta la mia vita lì. E c'è pavimenti, piccolissime cose personali che utilizzate però benissimo dallo scrittore, che non sono io, insomma, lo scrittore è un'altra cosa. E mi venivano in mente tantissime cose che erano lì da 40 anni, 50, 100, no, 100 no, ma insomma 60. Giardini, alberi, giardinieri, pavimenti, giocattoli, ghiaia, tutte cose della mia vita. E così via via, alla fine si può dire che è un'autobiografia, ecco. Insomma, questa è stata l'edizione 2007 del Premio Campiello, lo ricordiamo al primo posto Mariolina Venezia con Mille anni che sto qui, una saga storica, la saga della famiglia Falcone ambientata in Basilicata. Al secondo posto il libro Mal di pietre di Milena Agus e poi al terzo posto Romolo Bugaro con Il labirinto delle passioni perdute, una fotografia della società dissoluta dei ricchi di oggi. Al quarto posto Alessandro Zaccuri con Il signor figlio, una storia fantasiosa sulla vita di Giacomo Leopardi, e infine, ne abbiamo parlato ora, Carlo Fruttero con Donne informate sui fatti, un giallo raccontato in prima persona da 8 donne, la vittima stessa è una donna, in maniera assolutamente molto ma molto ironica. Il premio Campiello dunque è stato assegnato anche per questa 45esima edizione, ma ricordiamo anche che il Campiello ha una grande importanza nel panorama letterario italiano, non solo perché appunto si premia il libro ritenuto più bello per i lettori, ma anche perché dà spazio ai giovani con il Campiello Giovani, alle opere prime con il Campiello Opera Prima, che è stato vinto quest'anno da Paolo Colagrande con il romanzo Fideg pubblicato da Alet, un romanzo tra l'altro molto ironico e che prende in giro il mondo dell'editoria, Campiello compreso, quindi insomma una bella prova di ironia da parte degli stessi giurati del Campiello. E poi c'è anche il Campiello all'estero, la promozione cioè del Made in Italy, in questo caso della scrittura Made in Italy degli autori italiani all'estero. Ci sono romanzi italiani che vengono pubblicati all'estero, che hanno grande successo in determinati paesi, allora si assegna a questi romanzi un premio, ogni volta in un paese diverso. 2 anni fa era la Germania, l'anno scorso la Spagna, e ora sentiremo dalla voce del presidente della Confindustria Veneta, Andrea Riello, quale sarà il paese che ospiterà l'anno prossimo il Campiello all'estero. Questa è un'idea che ci è venuta 2 anni fa sostanzialmente, no? Nel nostro piccolo abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa per l'immagine del nostro paese al di fuori dei confini territoriali nazionali. Il Campiello oggi è il premio più prestigioso in Italia, ma fuori dall'Italia non è ancora conosciuto, mentre spesso gli italiani sono conosciuti per fatti più negativi. Allora abbiamo pensato di portare e esportare questo Campiello all'estero, nei mercati dove le nostre imprese normalmente si trovano poi a imporre i loro prodotti, per far capire che l'Italia si occupa anche, l'impresa italiana si occupa anche di cultura e di favorire la lettura come strumento di accrescimento culturale del territorio. L'anno scorso eravamo a Berlino, quest'anno siamo andati in Spagna, l'anno prossimo saremo in Francia, a Parigi. E il successo che sta avendo questa iniziativa in termini proprio di contatto e di conoscenza ci lascia soddisfatti che anche in questo caso gli industriali del Veneto hanno fatto una piccola cosa che insieme a tante altre piccole cose che fa Confindustria permettono di migliorare l'immagine complessiva del nostro paese, e le assicuro ne abbiamo ancora tanto bisogno. E questo era Andrea Riello, presidente della Confindustria del Veneto. Perché il presidente della Confindustria al Campiello? Beh, lo ricordiamo per chi non lo sapesse che il premio Campiello è organizzato dal 62, a partire dal 62, dalla Confindustria del Veneto, quindi dagli industriali veneti che avevano voluto creare un binomio anche con la cultura e quindi con gli scrittori. Stefano Salis, siamo in conclusione di questo speciale dedicato al Campiello. Abbiamo ricordato la classifica, abbiamo sentito la voce dei protagonisti, alcuni estratti di letture. Tu che giudizio complessivo, finale dai a questa edizione? Insomma, un'edizione che ti è piaciuta? Un'ottima edizione con una ottima cinquina, un buon vincitore, e peccato per Fruttero che è arrivato ultimo. Se posso permettermi un lievissimo appunto all'organizzazione, peraltro perfetta, di questo premio letterario, mi sarebbe piaciuto sentire da lettore, da affezionato lettore del Domenicale, un ricordo di Luigi Meneghello, che è scomparso giusto un mese fa, che era un grande scrittore del Veneto e forse è sfuggito, ecco, all'organizzazione un piccolo omaggio a questo grande scrittore, sì. Grazie a Stefano Salis del Domenicale del Sole 24 Ore. Si chiude qui questo speciale dedicato alla Premio Campiello 2007. Una buona serata da Alessandra Tedesco.